lasciami stare, lasciami stare, non chiedermi come stai, perché sto male, non mi piace dove stavo. Giungla di animali, la scuola la detestavo, mi vergognavo, ero vestito uguale. Per tutto l'anno farò i soldi, un giorno mamma ti dirò fai i bagagli. E quante volte ho chiesto di perdonarmi, e quante volte ho chiesto perché piangi. Ho voltato la pagina, non faccio più soldi facili, sto firmando vari contratti. M'han detto cambia mentalità, o finisci sparato o finisci in cella. Avevo altro per la testa, è stato un trauma il primo arresto, soldi mandato alla testa. Io non volevo tutto questo, pensano che me lo invento, l'ho detto, l'ho fatto veramente. Nuoglione malamente, perso qualche parente, soldi nelle pareti, facevo le tarantelle. Quanti in zona hanno talento, lo Stato non ci sente, ci considera fermi perché non chiediamo niente. Non chiedermi se va bene, non va bene niente. I ragazzi di quartiere imparano a erre le sirene, lotto con iene dalla mattina alla sera. Ho visto il bello pure in mezzo alla miseria. Ho voltato la pagina, non faccio più soldi facili, sto firmando vari contratti. M'han detto cambia mentalità, o finisci sparato o finisci in cella. Avevo altro per la testa, è stato un trauma il primo arresto, soldi mandato alla testa. Io non volevo tutto questo, pensano che me lo invento.